Demoni mi rendono le notti così fredde, questi figli di puttana che mi tengono le strette. Più mi guardo attorno, la speranza tocca il fondo e mi deprimo così tanto che la notte non ci dormo. Esprende ciò che provo in ogni mio singolo verso, la merda che giorno dopo giorno io attraverso. L'hip hop, la mia malattia ne sono certo, ed una relazione non è certo ciò che c'è. Sono stanco della gente che ha sempre da giudicare, ma quando c'è da dimostrare preferisce passare. Ma dopo tutto non mi arrendo, combatto, ma per evitare questa gente a finale me ne scappo. La cosa sicura è che non ne uscirò distrutto, senza un futuro me ne sbatto, vaffanculo tutto. La musica bombava, il voto m'azzaccava, ma n'ava sensazione che nessuno mi spiegava. No, tu giura, continuo frate che si brava. Li continuavo, ma sti scemi mi stressavano. Appena mi girava, sta gente già parlava. I stessi persi da un discorso contro a chi me la girava. Senza rimorso né vantaggio, ragazzi mi accumulava. In silenzio che cuffiette per sta strada che ammanava. So cresciuto forte, I'm very hard. Sto mezzo a ipocrisia e non può fare bastardo. Cagna assaia, una mandri fallita, ha già sfidato allora ma non regge una sfida. Sinceramente, o paresi poco serie, mettimi e zindesserate e non vuoi finire problema. Rap Napoli, on the beat of school, a gala capa quando sente che sta piela in culo. I would never wish death on nobody, you know?